Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. La nostra dieta ai tempi del coronavirus. Molte persone mi hanno scritto: ma che cosa è bene mangiare, che cosa è bene aggiungere? Allora ho una grande sorpresa per voi, per me è veramente un piacere grande. Come dico, una carezza al cuore. Abbiamo qua in studio con noi il dottor Franco Berrino, che è tornato a trovarci. Grazie. Grazie, grazie dell'ospitalità. Dottor Berrino, andiamo a tavola. Perché, come e perché l'alimentazione, anche in un momento come questo, un momento particolare, critico, in cui noi dobbiamo restare forti a livello psicofisico per affrontare questa nuova sfida. Beh, stamattina io ho cotto la zucca. Sì. Perché a pranzo faremo i gnocchi. I gnocchi con la purea di zucca impastata con farina di grano saraceno. E poi il condimento sarà un condimento con una salsina fatta con miso, no? Questo è un prodotto di soia fermentato, e il tahini, il burro di sesamo. Ma perché vi dico questo? Perché per quanto noi medici ce ne siamo dimenticati, il nostro modo di mangiare influenza moltissimo le nostre difese immunitarie. E gli studi sono chiarissimi nel mostrare che la dieta mediterranea tradizionale, cioè basata su cereali integrali, legumi, verdure, frutta, frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle, potenzia le nostre difese immunitarie. Nei nostri studi su centinaia di migliaia di persone vediamo che chi mangia così muore meno di tante malattie croniche, di diabete, di infarto, di cancro, di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie dell'apparato digerente e anche di malattie infettive. Perché se noi facciamo funzionare bene il nostro sistema digerente, il nostro intestino, ebbene funziona bene il nostro sistema immunitario. E gli studi sono molto chiari che un'alimentazione ricca di fibre potenzia il sistema immunitario, che un'alimentazione ricca di salumi e carni danneggia le nostre difese immunitarie. E che può essere utile in questa occasione per prendere dei probiotici, un kefir per esempio, anche lo yogurt, ma il kefir è meglio, è un po' più ricco. E un consiglio, io poi sono famoso perché parlo sempre male degli integratori, no? Sì. E dico, se noi mangiamo bene non abbiamo bisogno di nessun integratore. Però è difficile mangiare bene, abbiamo però una vita che va di fretta. In questa fase potrebbe essere utile prendere qualche pillolina di zinco, sì. Perché lo zinco è molto utile per il nostro sistema immunitario. E un'altra cosa importante è l'attività fisica. Approfittiamo di questo fatto che finalmente a Milano si è ridotto il traffico e quindi si è ridotto drammaticamente l'inquinamento e andiamo a fare delle lunghe passeggiate lungo i Navigli, respiriamo dove meno. Ogni tanto ci incontriamo. Dove ogni tanto ci incontriamo. È stato bellissimo in questi giorni, si poteva respirare, sì. Nonostante non sia piovuto, beh ieri è piovuto fortunatamente, sì. Ma nonostante l'inquinamento fosse a livelli altissimi, è sceso molto con la diminuzione delle attività. Quindi mangiamo bene, mangiamo prevalentemente vegetali, mangiamo i cereali integrali che hanno una potente azione antinfiammatoria, facciamo attività fisica, riduciamo le carni, i salumi, ma che sono cose da ridurre in generale. Ma dottor Berrino, abbiamo parlato di dieta, abbiamo parlato di attività sportiva, parliamo anche di meditazione. Nel suo ultimo libro, insieme a Daniel Lumera, ha sottolineato, tutto dimostrato dalla scienza, gli effetti protettivi e posso dire anche terapeutici della meditazione per la nostra salute? Gli effetti proprio della nostra vita spirituale sulla nostra fisiologia. E allora, quello che è ben dimostrato è che con la meditazione noi modifichiamo l'attività del nostro DNA. Non possiamo cambiare DNA, ma possiamo accendere e spegnere decine di geni. Di alcuni di questi geni non sappiamo nemmeno che cosa facciano esattamente, ma sappiamo che con la meditazione si può ridurre l'attività dei geni dell'infiammazione, che sono alla base di tutte le gravi malattie croniche di oggi. Non saprei dirvi se la meditazione riduce il rischio di prendere il coronavirus, però... Non ci sono studi a supporto. Non ci sono ancora studi sui possibili effetti terapeutici, però anche senza studi noi raccomandiamo di dare importanza alla propria vita spirituale. E noi sappiamo che chi ha una vita spirituale, a parità di età, a parità di tabacco, di dieta, di tutti i fattori che influenzano la mortalità, muore di meno. Lo sappiamo sulla base di un grande studio dell'Università di Harvard che 40 anni fa ha reclutato 120.000 infermiere. È uno studio importantissimo. Queste infermiere compilano dei questionari, vengono seguite, andiamo a studiare le differenze fra chi poi si ammala, chi non si ammala e così via. Ma c'era anche una domandina su questo questionario che diceva: con quale frequenza vai al tempio? Al tempio perché sono cattoliche, protestanti, ebree e altre religioni. Ebbene, le infermiere che vanno al tempio due volte alla settimana o più muoiono il 33% in meno rispetto a quelle che non vanno mai al tempio. E cosa vai a fare al tempio? Verosimilmente vai a pregare, che è un po' la nostra forma di meditazione. E pensate che la protezione era molto superiore per le donne afroamericane che per le donne bianche. Come mai? I ricercatori non davano nessuna interpretazione. Ma se avete visto il film Sister Act, sapete che cosa fanno le donne nere quando vanno al tempio? Cantano i gospel. E allora, quando canti, liberi la mente. E liberare la mente è l'obiettivo della meditazione. E non a caso si dice canta che ti passa. Canta che ti passa. E mi ricordo quando ero bambino, girando per il paese, sentivo che le donne cantavano in casa, mentre facevano i mestieri e così via. Adesso non succede più, adesso c'è la televisione accesa. È vero, è vero. Spegniamo la televisione. Cantiamo. E mettiamoci a cantare. Dottor Berrino, ci ha lasciato con questi gnocchetti squisiti di zucca. Io tra l'altro ho imparato... Ecco, sa che ho scoperto... Cioè, veramente, a dirla tutta, me l'ha suggerita mia figlia, che a sua volta l'ha letta su internet, di infilare la zucca intera, lavata, ma senza sbucciarla, nel forno. Nel forno, sì, sì, sì, sì, è un ottimo sistema. È vero, si cuoce da sola, non rischi di tagliarti, perché la zucca tante persone magari non la acquistano, non la consumano perché è difficile da tagliare. Invece dopo un'oretta a 180 gradi è perfetta, si taglia, si svuota, viene questa, è bellissima, e aggiungiamo la polpa. Gnocchetti li abbiamo preparati benissimo. Ecco, e poi come continuiamo? Facciamo un menù per una giornata per portare a tavola tutte le sostanze che ci servono per contrastare le infezioni. Usiamo le verdure, naturalmente, tutta una varietà di verdure, più verdure che frutta, anche la frutta va molto bene. E stiamo un po' lontani dallo zucchero. Sì. Lo zucchero è uno dei principali fattori dell'infiammazione. Sapete, chi beve bevande zuccherate muore di più, è proprio chiarissimo. Due bicchieri al giorno aumentano la mortalità, nel nostro grande studio su 500.000 persone, aumentano la mortalità del 17%. E anche le bevande zero non vanno bene. Paradossalmente, le bevande zero potrebbero essere ancora più pericolose delle bevande zuccherate. Pensate che nei nostri studi viene fuori che chi beve le bevande zero si ammala di più di diabete. E non c'è zucchero lì dentro, eppure si ammala più di diabete. E quindi niente soft drink. No. E niente... Verdura? Quindi noi abbiamo la zucca, gnocchetti del dottor Berrino li abbiamo e sono siamo molto ancora, semplici. Siamo ancora ai tempi dell'orto meraviglioso invernale, sta per finire, però approfittiamone. C'è il cavolo rapa è qualche cosa di meraviglioso, perché... Guardi, me lo descrive così che mi viene già voglia di mangiarlo, crudo, a morsi. In realtà... Come possiamo prepararlo? Perché meravigliosamente i cavoli, a volte la gente non piace perché hanno dei gusti amaroni, sì, no? Il broccolo, invece il cavolo rapa è di un'eleganza e di una dolcezza meravigliosa. Vede, se rinasco cavolo rapa. Che dice, dottor Berrino? Beh, sai, tutte le varietà di cavoli hanno delle meraviglie, no? il, il, Sapete, ad esempio, la storia che la vitamina C proteggerebbe dalle malattie infettive, sì. Non è proprio sicurissimo, ma è abbastanza. Beh. Ma sapete qual è l'alimento più ricco di vitamina C? È il cavolfiore. Mangiamo il cavolfiore, ma non facciamolo bollire tanto, scottiamolo appena appena per non distruggere la vitamina C. Si può C. anche grattugiare crudo sulla pasta? È molto bene, tutte le volte che si mangiano questi prodotti di cavoli è sempre bene mangiarne un po' anche crudo. E voilà. Perché cuocendoli noi distruggiamo un enzima che ci rende disponibili delle sostanze buone, ma se ne mangiamo anche un po' crudo abbiamo l'enzima, così prendiamo intanto anche che le sostanze buone. Sgranocchiamo e cantiamo. Perfetto. Dottor Verrino, grazie, un abbraccio a distanza. A distanza. Noi ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per la nostra diretta Facebook.